Lavoro nella Reca Training che in termini militari si dice CJ7, che sarà il training. So che nell'audience ci sono alcuni studenti che hanno un background militare. Chi sono? 1, 2, 3. Perfetto. Qualcun altro nell'audience ha mai sentito parlare di CIMI? Io sì. No. Io sì, qualcosa. Qualcosa? È la prima volta che vengo qua, che veniamo qua, come molti ne sono semi group. Io ho preparato qualcosa di molto generico all'inizio, quindi cominciamo veramente dalle basi e poi vediamo di andare più concentrati nel dettaglio. Se avete qualsiasi domanda, tranquillamente fermatevi, qualsiasi domanda, qualsiasi chiarimento, qualsiasi cosa, senza nessun problema in qualsiasi momento. Se avete argomenti di cui volete discutere in maniera particolare, chiedete, se possibile, se è una cosa che conosco o di cui posso parlare, ovviamente sarà un piacere discutere. Questo è il contenuto della prima presentazione. Faremo un velocissimo, due parole velocissime sulla NATO come organizzazione dal punto di vista politico, giusto per inquadrare anche dove il Multinational Civil Group si inserisce nell'ambito delle sue missioni. A parte quelli che hanno un background militare, c'è qualcuno che conosce abbastanza bene la NATO o ha un background NATO? Io ho fatto un corso MIMS, okay. Emergenza militare. Quindi. Due parole, vedremo il nuovo contesto strategico in cui gli assetti militari si trovano ad operare, che è cambiato in questo contesto operativo. Parleremo dei documenti di riferimento. Alcuni di questi documenti sono non classificati e il contenuto di questa presentazione è ovviamente non classificato. Vi lascerò una library con un all'interno di documenti di riferimento, fermo restando che chiunque fosse interessato a approfondire l'argomento può contattare in qualsiasi momento e non c'è problema. Il Multinational Civil Group, a proposito, ha un sito web consultabile dove sono disponibili anche alcuni riferimenti del documento e i contatti. Parleremo poi della definizione per capire bene appunto nella base di cosa è il CIMIC, vedremo che cosa fa dal punto di vista dottrinale nelle aree di operazioni. Questa prima presentazione è abbastanza dottrinale, più teorica, fermo restando che se volete approfondire e poi dare un'occhiata a quali sono fisicamente proprio gli attori che ho creato, quindi gli assetti simili. NATO. Sappiamo che viene percepita principalmente come un'organizzazione militare, ma non è solo un'organizzazione militare, è un'organizzazione politica, 28 stati membri. Tra l'altro, la notizia di questi giorni c'è stato invito anche al Montenegro per entrare nell'alleanza, che questo ha irritato i russi. Lo scopo principale dell'alleanza è la difesa collettiva dei propri membri, ovviamente, e il mantenimento da statuto atlantico della pace democratica nell'area di interesse. 28 stati membri, diciamo, da statuto ogni nazione ha lo stesso peso. Anzi, poi sappiamo che non è proprio così. Decisioni vengono prese unanimamente, e questo è abbastanza vero. Ci sono stati dei casi in cui la NATO è stato chiesto l'altro intervenire e non è intervenuta come alleanza, per esempio, perché alcuni paesi non hanno dovuto intervenire. Qualcuno si ricorda un esempio? NERC. Esatto. È stata una missione inizialmente come coalizione proprio perché alcuni stati membri non hanno dato assenso a partecipare. I governi ovviamente sono il motore dell'alleanza, questa è la dimensione geografica e questa è la struttura dal punto di vista politico, ovviamente abbiamo l'autorità nazionale, il segretario generale che presiede il NAC, North Atlantic Council, dove siedono i rappresentanti permanenti delle nazioni e gli ambasciatori. Supportato da uno staff internazionale, quello azzurro è tutto personale civile, Stato internazionale, C. C'è un leader come T, presieduto da un chairman, questa è la parte militare. Per esempio, dal punto di vista italiano, l'ultimo chairman di l'Italia è stato l'ammiraglio di Paola, supportato da uno staff militare, International Military Staff, che è responsabile di fornire advice, consiglio e supportare dal punto di vista militare il processo di pianificazione e di decision making. Sotto c'è detto come estratto, che è la parte militare, quindi tutti i comandi militari. Per quanto riguarda la parte militare esistono due comandi strategici, cioè il livello più alto dei comandi militari. Sono dislocati uno dell'Air Command Transformation a Norfolk, negli Stati Uniti, ed è responsabile della trasformazione, appunto, quindi adattamento della struttura della NATO ai nuovi scenari e sviluppo delle nuove dottrine. L'Air Command Operation, come dice la parola, è responsabile delle operazioni della NATO, quindi della pianificazione e della condotta dell'operazione. Ed è a Mons, Belgio. Questi sono i due comandi con le varie missioni che abbiamo elencato brevemente. Se avete domande in particolare, chiedete. Ma il Multinational Civil Group non fa parte della struttura di comando della NATO, della Command Structure, ma è un comando che è affiliato alla NATO. Cosa vuol dire? Che in caso di bisogno la NATO può chiedere di utilizzare gli assetti del Multinational Civil Group e allora vengono posti sotto un comando. È affiliato direttamente alla Command Operation. Nel concetto operativo va a supportare uno dei due comandi che è in carico di gestire un'operazione operativo. Il livello di ambizione della NATO è ancora in questo momento quello di poter gestire al massimo due major operations e sei small operations. Una major operation, per capirci, può essere l'Afghanistan. Tant'è vero che le operazioni in Afghanistan erano dirette principalmente da il Joint Force Command Group finché esisteva la missione ISAF. Il Multinational Civil Group ha supportato sia il comando di Kabul, sia il TRT, Provincial Reconstruction Team, che era nella provincia di Herat in Afghanistan. Probabilmente qualcosa a livello di nomi di suono, perché comunque se ne parlava nei giornali, nella stampa di questa attività, poi entreremo nel dettaglio. Il Joint Force Command Naples, per esempio, era responsabile delle operazioni in Libia. L'operazione in Libia è stata un'operazione dal punto di vista militare soltanto aerea, non c'erano truppe sul terreno. Però comunque l'utilizzazione del gruppo ha supportato il comando con un ufficiale che si occupa della pianificazione. L'utilizzazione del gruppo si occupa, come vedremo poi, non soltanto di operazioni ma anche di training. Da questo punto di vista ha una dipendenza anche dalla Command Transformation e coopera in questo senso con il Team Center of Excellence, che è in Olanda, che è un ente, un centro di eccellenza che si occupa di sviluppo dottrinale e di corsi. Il contesto. Da un punto di vista nazionale, il SIMI possiamo dire che è sempre esistito, anche perché comunque civili e militari, in qualsiasi situazione di crisi, hanno sempre condiviso lo stesso, hanno sempre convissuto, diciamo, lo stesso teatro d'operazione. Non è un concetto nuovo, diciamo. Che cos'è cambiato negli ultimi anni? Che da un concetto di guerra fredda, quindi blocchi contrapposti, si è passato a delle operazioni che sono sempre più operazioni di risposta a crisi complesse. Qualcuno sa dirmi cos'è una crisi complessa? Una definizione? Una crisi che non è solamente in campo militare, ma comporta anche un campo civile delle popolazioni, dei territori. Esatto, quindi stiamo parlando di stati fragili o stati falliti, dove non soltanto c'è una questione di sicurezza che non funziona, ma la crisi affligge anche la governance, quindi il sistema dei servizi sociali, civili, eccetera, eccetera. Quando si è cominciato a parlare della necessità di dotarsi di strumenti, della NATO ha deciso di dotarsi di strumenti simili, principalmente dopo l'operazione nei Balcani, Bosnia e poi Kosovo, e poi particolarmente, come vedremo, in Afghanistan. La situazione è tale che una crisi locale ha un impatto non soltanto a livello di Stato, ma a livello regionale o addirittura a livello internazionale. Ed è per questo che la comunità internazionale ovviamente gli viene richiesto di intervenire con degli strumenti che non sono soltanto quello militare. Lo strumento militare non è più l'unico o non è l'unico che può appunto risolvere una crisi di questo tipo. La comunità internazionale interviene, se non con la stessa missione, e quando parlo di comunità internazionale intendiamo organizzazioni come la NATO, ma anche le Nazioni Unite, OSCE, eccetera, eccetera, non tutti con la stessa missione ovviamente, ma almeno con una visione strategica comune e condivisa. C'è una varietà di attori coinvolti allo stesso tempo, quindi l'approccio convenzionale non è più abbastanza e c'è la necessità di dotarsi di una risposta integrata e multidimensionale. Non spaventatevi, non stiamo parlando di scienza nucleare qua, quello che vedete rappresentato qui è quello che viene chiamato l'engagement speeds. Io ho una certa età, quando sono entrato nella struttura militare si parlava inizialmente di campo di battaglia, battlefield e battle space. Ora i termini sono anche cambiati e non a caso. Parliamo di engagement space perché secondo voi? In questa operazione di crisi complessa non abbiamo più un nemico di fronte, no? O soltanto un nemico di fronte. Sono operazioni che sono misto militari civili. Misto militari civili. E di quindi c'è bisogno anche di dover integrare e ritornare da uno stato di al superamento dell'emergenza alle normali condizioni di vita post bellico. Assolutamente. Quindi sono quelli che abbiamo considerato che l'operazione people centric. Non abbiamo soltanto un nemico, ma ci troviamo a interagire con una serie di attori diversi nel teatro operativo. Quindi un contingente militare che è in un determinato teatro operativo si troverà anche contemporaneamente ad avere operazioni belliche sul terreno e magari a poca distanza dalle stesse operazioni a fornire assistenza alle popolazioni. E nello stesso contesto e magari anche contemporaneamente a interagire con le autorità locali o internazionali a diversi livelli. In questo il facilitatore è il SIMI. Per svolgere questa particolare missione e ovviamente questo personale deve essere addestrato a questa specifica missione. Quindi training, esercitazioni, corsi, eccetera, eccetera. Queste sono le tre componenti che andremo ad analizzare. È un po' come quando bisogna guidare un'automobile, quindi c'è la necessità di avere la parte fisica, quindi automobile e guidatore, una parte dottrinale, quindi il codice della strada, istruzione della macchina, eccetera, eccetera, e sulla guida. Una domanda? Prego. Quanto tutto questo è indotto dalle cosiddette guerre asimmetriche? Sì. Questo è stato condizionato? Assolutamente, questo poi ci torneremo in seguito, però sicuramente è stato molto condizionato. Appunto perché avendo di fronte una situazione di minaccia asimmetrica, abbiamo necessità di una risposta adeguata, si compresa. La situazione, ma questo lo vedremo poi in seguito, quindi se probabilmente risponderò alla domanda quando parleremo di comprehensive approach, del contributo della NATO a quello che è il comprehensive approach alle crisis non sovrage. Andiamo ai riferimenti dottrinali, molto velocemente, sono la parte magari più noiosa, però comunque importante, perché definiscono il framework, la cornice all'interno del quale poi si va a operare. C'è un livello strategico, abbiamo parlato del DAC, il Northern Atlantic Council, Military Committee, quindi abbiamo una military policy, ovviamente è un documento di policy, quindi è un documento molto ristretto che traccia le linee guida per lo sviluppo del SIMI. C'è una parte operativa con la dottrina, che per i tecnici è l'IGP 349, che va un po' più nel dettaglio dell'argomento, è stata riaggiornata da poco, è stata sviluppata, unico caso di documento militare della NATO, in collaborazione con attori civili. Quando parlo di attori civili dico organizzazioni governative, non governative, che hanno partecipato ai gruppi di lavoro, ed è stata resa totalmente non classificata, proprio perché deve essere un documento condivisibile, proprio perché serve come strumento di una piattaforma comune di lavoro comune per l'interno. A livello tattico, che è poi comunque il livello dell'unità da cui vengo, quindi sul terreno, esistono quelli che vengono chiamati in ambito NATO i TTP, Tactics, Techniques and Procedures. Sono dei documenti molto dettagliati che spiegano, vedremo poi quali e per quali argomenti, come svolgere le varie operazioni. La policy, la dottrina, abbiamo anche un field handbook che è sviluppato dal SIMI Center of Excellence, è un documento tascabile che può essere utilizzato sul terreno, abbastanza dettagliato, è uno strumento utile per fare il video. Questi sono l'elenco dei TTP. La mia unità per la NATO è quello che viene chiamato il custode di questi documenti. Questo vuol dire che è responsabile anche dell'aggiornamento, della guida dei gruppi di lavoro quando devono essere aggiornati e dell'integrità dei documenti. Molto velocemente, il numero 1 parla del Theater Civil Assessment and Civic Reporting. Il Theater Civil Assessment per noi appunto è una valutazione della dimensione civile che troviamo nel teatro di operazione. Quando parlo di dimensione civile parlo dei fattori critici, che sono un po' quelli basilari dal punto di vista umanitario, quindi acqua, cibo, elettricità, sicurezza, shelter, quindi protezione, queste cose qua. Ci sono organizzazioni umanitarie, di sviluppo, comunque dello stesso teatro di operazione, che trattano gli stessi argomenti, però li trattano da una prospettiva diversa. Ovviamente il SIMIC non è un'organizzazione umanitaria, è una funzione militare, e in questo, per mantenere buoni rapporti, buone relazioni con tutti, bisogna essere sempre crystal clear, come si usa dire, molto molto chiaro. Il SIMIC è una funzione militare che quando svolge anche dei progetti in supporto alla popolazione, come vedremo, lo fa in funzione della missione che il comando militare fa. E vedremo poi meglio questo. Civic Council appunto definisce quali sono fisicamente gli assetti sul terreno, l'architettura di ESO, quindi di coordinamento con le varie organizzazioni umanitarie oppure anche con le autorità locali. Questo viene strutturata in base alla catena di comando militare, in maniera di evitare sovrapposizioni, in maniera di evitare che lo stesso attore civile venga approcciato diverse volte da diversi attori, quindi l'attività di liaison deve avere sempre un focal point. I civic center fanno parte dell'architettura liaison, quindi sono dei centri che sono normalmente, se possibile, aperti al di fuori delle basi militari, in cui tutti gli attori civili, dalla popolazione fino all'autorità locale, fino agli uffici umanitari, possono rivolgersi nel caso abbiano richieste verso la comunità militare o per qualsiasi tipo appunto di interazione. The confliction of civilian mass movements, ovviamente in condizioni di crisi acuta umanitaria avremo grandi spostamenti di persone. Questo è ovviamente anche in questi giorni qualcosa di molto attuale. Quando abbiamo sul terreno una missione militare, questi spostamenti di persone hanno un elemento di impatto sulle operazioni militari e viceversa. Quindi anche qui abbiamo delle linee guida che ci aiutano in questo senso. NRF non è molto di interesse per voi probabilmente. NRF sta per NATO Response Force, è una forza di intervento della NATO, di pronto intervento diciamo, a livello brigata quasi, è tecnico nel settore, che ha un ciclo di un anno di preparazione e un anno di stand-by, vuol dire che è una forza che ciclicamente è pronta a intervenire in caso di crisi immediata. E ci sono gli assetti simili ovviamente che vengono messi a disposizione di questo contingente. Progetti SIMIC, non so, magari probabilmente anche a livello media potete aver letto di attività che vengono fatte sul terreno in supporto alla popolazione da parte di contingenti. A volte può sembrare un simbolo per alcuni, ed effettivamente per tante organizzazioni umanitarie questo viene visto, e poi vedremo il perché, anche una cosa non corretta. Può far storcere il naso a qualcuno. Però, in funzione della missione militare, normalmente ai contingenti militari viene destinato anche un budget che può essere utilizzato per attività in supporto alla missione. Poi vedremo quali sono i tipi. SimSimbo, vabbè, questo serve più che altro per ragionare mappe militare e database requirements. Perché al personale SIMIC che si occupa di SIM military cooperation servono i database? Che cosa ci consente? Database, quindi archivi. Archivi elettronici o banche dati. Banche dati. Per caratterizzare il territorio, per caratterizzare le reti, per caratterizzare le popolazioni. Viviamo nell'età dell'informazione e quindi l'informazione è ovviamente... Perché si possono sfruttare dei sistemi informativi territoriali dove possiamo avere tutto quello che ci serve per una pianificazione dal punto di vista sia civile che militare. Facendo attività di assessment, ovviamente gli assetti simici raccolgono una grandissima quantità di informazioni sul territorio che è utile al contingente militare per pianificare. E quindi tutte queste informazioni devono essere catalogate e strutturate in maniera da essere gestibili e fruibili dal comando. Per questo c'è bisogno di gestione delle informazioni. Dopodiché, per relazionarsi con tutta una serie di attori civili, ovviamente abbiamo bisogno anche di tutta una lista di punti di contatto, indirizzi, email, telefoni, eccetera, eccetera, in maniera di essere, che siano prontamente disponibili all'esigenza, non c'è necessità di relazionarsi. Poi tenete conto che normalmente la durata di una missione per un contingente militare è una rotazione di 6 mesi, quindi può essere lunga sotto certi punti di vista, ma è corta sotto altri. Per tante organizzazioni umanitarie normalmente invece loro stanno sul terreno magari anche un anno, o 2 anni, o anche di più, o anche 3 anni. I contingenti militari, rotando così costantemente, ogni 6 mesi, hanno necessità appunto di uno strumento che nel passaggio di consegne ci sia la possibilità di trasferire. E siamo alla definizione. Questa definizione è dottrinale del SIMI, della del Civil Military Interaction. Civil Military Interaction è un concetto un po' più ampio che è stato inserito dal punto di vista di policy e di dottrina recentemente e che definisce, che viene definita come appunto un gruppo di attività basato su comunicazione, pianificazione e coordinamento degli assetti della NATO con gli attori non militari internazionali. Quindi stiamo parlando del SIMI più tante altre attività. In ambito di operazioni militari c'è un'altra attività che viene chiamata Cross Nation Support. Per esempio un contingente militare ha necessità di acquisire sul terreno per esempio cibo, carburante, di negoziare l'accesso ai porti in maniera di non diciamo provocare troppi problemi agli aeroporti, quindi relazionarsi con le autorità, con i ministeri locali per questa serie di attività. Poi c'è l'attività civic, poi c'è l'attività, quella che viene chiamata key leader engagement, anche in cui i leader militari interagiscono con le autorità locali. All'interno di questo concetto di civil military interaction c'è anche il SIMIC, quindi andiamo a scendere un po' più in dettaglio. Dal punto di vista dottrinale è il coordinamento e la cooperazione, e quando parliamo di coordinamento e cooperazione è un concetto un po' ambizioso, ovviamente, che non sempre è possibile con tutti gli attori civili di teatro, in supporto della missione. E questo è sottolineato in rosso perché ovviamente, ripeto, noi siamo sempre molto, molto chiari di specificare questo. Ed è una cosa che a tanti umanitari non sta bene, per il semplice motivo che la loro attività non è dettata da un mandato politico, ma è basata principalmente sui principi umanitari. E quindi tante volte, come vedremo, questo può essere motivo di frizione. Quindi tra il comandante NATO e gli attori civili, compreso la popolazione locale e le autorità locali. E interpretato. Nella policy è scritto che il SIMIC è una joint function, quindi una funzione mista, integrata, diciamo, di capacità che supportano il raggiungimento degli obiettivi della missione. Fino adesso ci siamo? Domande? Quindi lo scopo è quello di facilitare appunto l'interazione tra la componente militare, tra la dimensione civile delle operazioni e quella militare. Posso chiederle una cosa? Come no? In questo SIMIC che a noi magari potrebbe fare destare interesse, ci sono anche dei civili? Sì, lo vedremo poi andando avanti. Ci sono, ogni nazione poi ha la sua organizzazione, però un esempio proprio pratico è per esempio la questione in Afghanistan. I PRT erano gli strumenti che erano responsabili dello sviluppo di una provincia ed erano degli assetti misti militari e civili. Addirittura c'erano alcuni PRT che erano militari civili, utilizzati proprio da civili. In più ci sono civili che agiscono e supportano in diversa maniera, oltre l'interazione. Questa interazione va dalla cooperazione, e vedremo con chi, quindi quando c'è un obiettivo comune, a un coordinamento più basico che consiste soltanto nella, diciamo, sincronizzazione delle rispettive attività, fino a volte soltanto uno scambio minimo di informazioni per evitare la sovrapposizione. Ovviamente questo da che cosa viene influenzato? abbiamo detto, l'interazione, il livello di interazione tra la componente militare e quella civile. Sono accetti che poi approfondiremo ancora dallo scopo della missione, che ovviamente influenza molto. Quando sarà più facile che la componente civile e quella militare lavorino insieme? Nella fase di ricostruzione, nella fase di ripristino. In quale tipo di missioni? Missioni State building. No, come abbiamo detto prima, per le crisi complesse, no? Nelle crisi complesse, sì. Dove vari aspetti diciamo che siccome la missione militare scaturisce sempre da che cosa? Da un mandato politico. E questo è anche vero per le grandi organizzazioni della famiglia UN, per esempio. Sarà più facile lavorare con loro, con le autorità locali, perché hanno probabilmente condividono lo stesso mandato politico, lo stesso obiettivo di lungo termine. Per quanto riguarda gli umanitari puri, sarà un po' più difficile lavorare con loro. In quali contesti? In quale tipo di missioni? In missioni dove i militari sono parte in causa nel conflitto. Mentre invece sarà più facile lavorare insieme quando la missione è la stessa. Per esempio, nelle operazioni di risposta a disastri naturali o avvenimenti. In quel caso, ovviamente, la missione è la stessa. Quindi, tra l'altro, il CIMIC si può trovare in tutte le operazioni della NATO, però avrà una rilevanza molto maggiore nelle operazioni di crisi complesse, un impatto molto minore quando la componente militare è impegnata attivamente in combattimenti e parte in causa del conflitto. In quel caso l'attività CIMIC sarà rivolta più che altro a coordinarsi con un'autorità locale e agenzie, principalmente UN, per attività di sincronizzazione della rispettiva attività, delle rispettive operazioni umanitarie del regime. Quindi spostamento di grandi masse di popolazione, messa in sicurezza di città o comunque della popolazione, eccetera, eccetera. Mentre invece in operazione di risposta alla crisi c'è un'altra vastissima gamma di possibili interazioni che si hanno con autorità locali o con le persone. Scopo di lungo termine del CIVIC è quello di creare condizioni che contribuiscono al raggiungimento della missione interagendo con la componente civile. Un case study classico. Adesso ISAF non esiste più, è stata sostituita dalla missione Arrenzio del Supporto, che è principalmente una missione addestrativa e di capacity building, quindi per le forze di sicurezza afghane. Però vediamo, questa è una missione classica tra virgolette, perché vediamo che il supporto al governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, ISAF conduce operazioni per ridurre la capacità degli insorgenti, quindi una missione prettamente militare per una componente militare, supportare la crescita e la capacità delle forze di sicurezza afghane, ancora una missione militare, però anche vediamo facilitare i miglioramenti della governance e dello sviluppo socio-economico del paese. Stiamo parlando di un contingente militare e questo è stato ancora meglio definito, come vedremo poi, nel concetto strategico della NATO approvato a Lisbona nel 2010, in cui sempre più la NATO verrà coinvolta in operazioni di stabilizzazione. Noi sappiamo che la stabilizzazione è un concetto abbastanza ampio che possiede molte dimensioni. Stabilizzare un paese non vuol dire soltanto fornire una cornice di sicurezza, ma è molto di più. L'Afghanistan è un esempio chiaro, come lo è stato anche l'Iraq, per esempio. All'Iraq, alla coalizione, sono bastati pochissimo tempo, un paio di mesi, per per avere il controllo della sicurezza del territorio, dal punto di vista per sconfiggere, dal punto di vista militare, le forze sul campo. Ma poi cosa è successo? Sono stati azzerati tutti i vertici politici, tutta la struttura sociale e politica anche a livello locale. Tutti i vertici del partito BAF sono stati rimossi. Si è creato un vuoto che poi è stato difficile sostituire. In Afghanistan la situazione è un po' diversa e più complessa. Però anche lì, dal punto di vista della sicurezza, sono stati fatti dei passi in avanti. Quello che è mancato, che però, questa bolla di sicurezza che è stata creata, non è stata poi supportata da uno sviluppo economico e politico. Le autorità locali ancora non vengono riconosciute dalla popolazione come dovrebbe essere. E quindi questo ha portato che gli insorgenti ancora, ovviamente, il bacino di personale che riempie le file degli insorgenti è ancora abbastanza. Chiedo scusa, prima si era detto appunto del Montenegro che vorrebbe proporsi nel XXI. Diciamo che erano già nel programma PFP, adesso è stato avanzato appunto. Ma noi abbiamo ancora in corso dal 93, dall'inizio del 93 sono 20 anni, poco più. Sì. Ancora operazioni in corso. Dal 93. Beh, in effetti. Sì, ma in effetti le operazioni belle che sono iniziate addirittura molto prima. Allora, il scontro a livello di guerra civile sì, era iniziato e ancora noi abbiamo operazioni in corso lì. Sì, questo sì. Come sono passati anni, decenni, ormai quasi due decenni pieni. Quindi lo sta. Beh, la situazione ovviamente adesso in questo momento è più o meno stabile, però non è risolta. Ci sono gli attriti etnici che non sono risolvibili. In tempi ci vogliono generazioni, purtroppo dobbiamo pensare in questi tempi. Ma lo stesso discorso vale per l'Afghanistan. Infatti dicevo, quindi come praticamente l'Afghanistan. È ancora peggiore probabilmente la situazione, quindi ci vorrà ancora forse una generazione, non basta, assolutamente. Infatti tante volte si compare, si vengono fatti dei paragoni, si dice, ma siamo là da 14 anni. 14 anni non è nulla. Per portare un paese dal Medioevo a un livello accettabile, perché di questo stiamo parlando. Sì, peraltro penso che sia veramente difficile fare un paragone tra Kosovo e Afghanistan, perché stiamo parlando di contesti completamente diversi. Cioè, chiaramente il Kosovo è un contesto sociale e politico problematico per gli standard europei, però rendiamoci conto delle differenze anche in termini di esigenze di controllo di un territorio. Un territorio come l'Afghanistan vuol dire un territorio molto piccolo come quello del Kosovo, dato che, mi corregga ma ricordo se sbaglio, la KFOR oggi è concentrata principalmente nelle zone del nord del Kosovo, dove è concentrata la popolazione serba e le tensioni sono molto concentrate in quella parte in contesti abbastanza diversi. Scusi, ma non siamo andati con un progetto un po' troppo ambizioso? Ridurre la capacità e la volontà dell'insurrezione. Sì. In un paese come l'Afghanistan, che ha visto oltre un decennio di lotta con i russi, oltre un decennio di lotta con gli Stati Uniti, noi ci poniamo il problema di ridurre la capacità, la volontà, capacità posso capire, ma la volontà dell'insurrezione. La domanda è molto interessante, sicuramente merita attenzione. Secondo me, quando la comunità internazionale si pone gli obiettivi, è giusto che siano gli obiettivi alti. Quando parliamo di volontà di combattere, penso che chi ha disegnato questa missione, ha creato questa missione, intendesse che se non cominciamo ad agire sulla volontà di combattere, quindi risolvere i problemi che sono alla radice di questa insorgenza. Non riusciremo mai a risolvere il problema. Alla radice sono diverse etnie, diverse origini tribali. I problemi sono tanti, i problemi sono tanti, tra cui anche questi. Ed è proprio per questo che lo strumento militare non può essere quello che risolve la crisi a lungo termine. Può stabilizzare nel momento, ma deve essere la comunità internazionale complessivamente e gli afghani stessi, prima di tutto, che prendono una situazione e la risolvono. È una cosa che è un progetto a lungo termine, che non succederà domani, ma ci vorranno, ripeto, generazioni. Però se non ci si pone obiettivi alti, se non ci si impone di risolvere le cause che sono alla radice dei conflitti, secondo me non ci si arriva mai. Secondo me il problema non è l'ambizione della missione, il problema è trovare la maniera per metterla in pratica. Sì, è chiaro che è interessante quell'utilizzo di capability e will, perché, come diceva lei, lo capiamo bene, la capability può essere ridotta con lo strumento militare classico. Il problema è quello di incidere sulla volontà delle insorrezioni, sulle volontà delle sorti. E quindi modificare una sorta di andare a cambiare il quadro degli incentivi che questi soggetti hanno a mettere in atto un'insurrezione contro una presenza straniera, contro una presenza di governo locale, strutturata, democratica, come la vogliamo intendere noi. Certo che se ci leggiamo, è molto interessante la lettura che abbiamo inserito nei nostri capelletti, la lettura che vi ho inserito sullo state building in Afghanistan, nella parte sullo state building c'è una interessante lettura, tra l'altro, che arriva da una persona con esperienza sul campo, e lo scollamento è lo scollamento tra il nostro modello di governo democratico e di sistema politico democratico, trapiantato dalla nostra cultura, dal nostro sistema, in un contesto territoriale, in un contesto locale completamente diverso. Una struttura sociale di governance, se possiamo chiamare governance completamente diversa. Voglio fare un attimo di pausa. Facciamo adesso una pausa? Sì. Io vado a fare una pausa anticipata, va bene, facciamo la pausa anticipata.